forse oggi ci vedo anch'io che è tutto a posto. Oggi sento che ho svegliato un morto, perché così sentivo il cuore spento e tutto il male andato in un momento. È tutto a posto. Oggi lui è Marco Iacampo con Tutto a posto. Blu Radio Sera. E possiamo dire proprio che è tutto a posto, perché finalmente siamo riusciti a prendere Eugenio Bennato. Cercavamo di farlo sin dalle ore 21. Siamo stati fortunati, l'abbiamo trovato. Benvenuto Eugenio, benvenuto in frequenza. Ciao. Allora, come va? Come te la stai passando? Guarda, facciamo musica sempre qui, fortissimo, Napoli, molto forte. Assolutamente, lo sappiamo anche noi del nord che lì a Napoli ci si diverte e molto con la musica. Bene, allora Eugenio, noi vogliamo parlare con te per quanto riguarda il tuo nuovo lavoro, un libro che si intitola Brigante se more. Vogliamo scavare con te qualcosa da questo libro per capirne qualcosa di più. Va bene, sono qui, ditemi. Allora nasce, Eugenio, ciao, sono Maurizio, nasce da un pezzo scritto in una sera di primavera del 1979. Era una commissione di una colonna sonora. Esatto. Una colonna sonora di un film su un brigantaggio, cioè su una storia allora sconosciuta, e io ero un ragazzo e mi chiese il regista Anton Giulio Maiano di scrivere una sorta di inno, di canto di guerra dei briganti, e io lo scrissi, ma in maniera così efficace che l'hanno cantata per 30 anni, la continuano a cantare, la continuano a incidere, e molti addirittura hanno creduto che fosse un canto che i briganti avevano scritto in quegli anni, cioè intorno al 1860. A me dispiaceva deluderli e quindi l'ho anche lasciato credere, però poi diventava un falso storico. L'abbiamo scritto io, appunto, nel 1979. Esattamente, anche se all'inizio, quando Carlo D'Angiò e te l'avevi scritto, avevate scritto un pezzo di musica abbastanza dolce, anche se il regista l'ha sentita e vi ha fatto cambiare totalmente il discorso. Sì, e lui, diciamo, in qualche modo ha fatto una piccola violenza. Noi eravamo ragazzi, avevamo le nostre idee, e lui mi ha detto... Dice, guarda, io ho bisogno di un coro che devono cantare tutti. Poco prima, pochi anni prima, lui aveva fatto un grande successo, L'Isola del Tesoro, quelli che hanno una certa età lo ricorderanno, dove c'era un inno, cioè un titoli di testa che faceva 15 uomini, 15 esatto, sulla cassa del morto. Ricordiamo. Quindi, ecco, e quindi lui aveva bisogno di qualcosa che, nell'ambito di una ambientazione diversa, appunto quella del sud, dei briganti, che però avesse lo stesso impatto, la stessa forza per cui io scrissi Om se nasce, Brigante se more, e l'hanno cantata in tanti. Quindi diciamo che lui ci ha violentato in qualche modo, ci ha costretto a mettere un testo che fosse un canto di guerra e un coro, e ha avuto ragione lui. Certo. Quindi adesso, allora, Eugenio, noi vogliamo far capire anche agli ascoltatori di cosa stiamo parlando, di quale canzone stiamo parlando, allora ne approfittiamo. Inseriamo la canzone di Brigante se more e poi torniamo a commentare insieme il libro e la canzone e tutti gli altri avvenimenti che caratterizzano la stesura di questo libro. A tra poco, Eugenio. L'ascolto con piacere, ciao. Ma busata, chitarra e tamburi, ma che sta musica salta cagna, ma brigante facimma paura, e qua scuppetta pulimma canta, e qua scuppetta pulimma canta, e mo cantamma sta nuova canzone, tutta la gente se la tambara, un ce ne fottero re Bourbon, ma terra nostra. Shut up. e na bestemmia va sta libertà, e na bestemmia va sta libertà. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato la ballata Brigante Se More. A commentarla con noi c'è Eugenio Bennato, a commentare non solo la ballata ma anche questo, che è un libro che è uscito da un mese circa, si intitola Brigante Se More, viaggio nella musica del sud. Allora, questo Brigante Se More, che tu Eugenio, ancora buonasera, benvenuto. Ciao. In frequenza, che tu Eugenio hai anche tradotto in varie lingue per farlo capire a molti, il testo della canzone. Ma guarda, io devo correggerti leggermente, io non ho mai tradotto, sì. L'hanno tradotto dei persone che non conosco, sì. E mi sono trovato la traduzione in polacco, in portoghese, in inglese, in francese. Significa dire che lo cantano da più parti del mondo, ma è stata una cosa spontanea fatta dagli ascoltatori, da quelli che lo cantano, da quelli che l'hanno scelto. Quindi, sì, tra altre cose, sempre parlando di, appunto, di ascoltatori, di gente a cui piace scrivere di te o contro di te, nella parte finale del libro ci sono anche molte cose prese da internet, prese da vari blog, proprio a proposito del parlare di questa ballata Brigante Se More. Sì, devo dar conto di quello che si sono inventati. È una storia singolare. Io, come sai, sono coetaneo di molti cantautori, da cominciare da mio fratello, sì. De Gregori, Venditti, Pino Daniele. Io penso che a nessuno di loro sia successo quello che è successo a me con questa ballata, nel senso che è stata, diciamo, oggetto di discussioni, di polemiche, ma soprattutto è stata tramandata da voce in voce, non attraverso il meccanismo discografico o dei mass media, ma proprio del passaparola, e quindi ha avuto una storia assolutamente singolare. Direi che uno dei più diffusi canti popolari, anche appunto se è d'autore, però è diventato proprio con questo meccanismo un canto popolare. Certo, quindi il canto popolare che si passa da nonno a figlio e così via nei secoli dei secoli, però questa è una canzone del 1979 che faceva rivivere il 1860, il periodo in cui si trovavano i vari Ninco Nanco, la Michelina, poi ancora Carmine Crocco e molti briganti. Personaggi che oggi si avviano a diventare famosi, perché su questa storia c'è stato un silenzio di 150 anni. Certo. Molte cose non dette oggi, proprio nella imminenza dell'Unità d'Italia, che è una cosa importantissima sulla quale siamo tutti d'accordo, però siamo anche d'accordo sul fatto che gente che ha combattuto per imporre la propria cultura, i propri dialetti, quelli in ogni caso vanno riconosciuti come esponenti di un'idea forte, e quindi oggi Ninco Nanco, Carmine Crocco, Michelina De Cesare diventano personaggi, e lo sono già e lo saranno sempre di più. Questo, oltre a un libro, è un saggio, Eugenio, un saggio, è un viaggio attraverso i suoni e i rituali della musica del sud, la riscoperta delle tradizioni. Io auguro anche agli ascoltatori del Veneto di rendersi conto che l'Italia dei dialetti ha ricchezze che sono state un po' trascurate, che invece ci rendono cittadini della world music. Mi viene in mente che proprio nelle vostre regioni ci sono tanti amici musicisti che addirittura ci sono dei rapper veneti. Io lo sapete sicuramente. Ne conosciamo. Li conoscete. Il fatto che ci si esprime attraverso qualcosa che ci appartiene è un arricchimento, e soprattutto si evita il pericolo della massificazione, della globalizzazione che porterebbe alla perdita della nostra identità. Questo è un discorso proprio di sopravvivenza della nostra cultura, quindi che tutte le regioni d'Italia si rendano conto di quanto il passato ci consegna delle grandi ricchezze. Certo, e comunque è sempre la musica popolare napoletana quella che riesce a fare breccia anche al nord, mentre diciamo che la musica del nord non riesce a fare breccia al sud. Come mai questa cosa, Eugenio? Ma guarda, io probabilmente si tratta di convinzione, perché si tratta di affermare con convinzione e di non cedere a questo facile esterofilia che porta molti soprattutto giovani ad abbracciare modelli, per dire, anglosassoni, comunque veicolati dai dalle multinazionali. Sì. Napoli ha una sua identità più forte, ma penso che sia un discorso che si possa allargare al sud come al nord. Decisamente. Leggendo, tu hai fondato una cosa molto bella nel 2001 a Bologna, la scuola di tarantella e danze popolari del Mediterraneo. Sì, questa energia ritmica che è davvero straordinaria, in effetti sta avendo ragione proprio sulle mode che vengono da fuori. Il fatto che oggi esistano festival con decine di migliaia di affezionati, forse di più, che corrono a questi raduni dove ci si esprime sul ritmo di una leggenda che appartiene al sud, la leggenda del ragno nero che pizzica, che morde, che inietta un veleno e dal veleno si guarisce solo attraverso il ritmo estenuante della Taranta. Sì. E Taranta Power è una realtà e lo è, diciamo, di anno in anno. Infatti ci sono scuole, ma a Bologna, a Milano, a Roma, un po' dappertutto, mentre un tempo esistevano solo scuole di flamenco o di balli latinoamericani, oggi c'è la presenza anche dei nostri balli etnici. Che è sicuramente un fatto positivo, appunto, come dici tu. E sempre per parlare di musica, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova e poi a questo nuovo progetto di Taranta Power, che copre appunto quello che tu enunciavi prima, com'è stato questo passaggio importante attraverso quella che è la tua musica? Guarda, innanzitutto una situazione da un punto di vista culturale più sana, perché negli anni 70 c'era l'ingerenza della politica tendeva a monopolizzare, la questione era chi aveva il padre più operaio in quegli anni, sì. E non c'entrava niente con l'arte, con la cultura, con il futuro. Oggi invece si parla di identità, si parla di appunto contrapposizione alla globalizzazione. Taranta Power è molto più forte. Poi io ebbi allora l'intuizione di rispolverare questo termine Taranta, che rende tutto più chiaro e più semplice, più veicolabile, per cui e di collegare quella musica a una danza. Penso che sia importante, le musiche popolari di tutto il mondo, di tutti i tempi, sono sempre il collegamento, pensa al reggae, pensa appunto al fado, al flamenco, c'è sempre un collegamento fra l'artista che canta e che suona e il pubblico che ascolta e che risponde con la danza. Certo, allora sempre con la musica, diciamo che siamo arrivati nel 2008, mi ricordo Grande Sud, una tua esperienza appunto a parlare ancora della musica vissuta in una maniera nuova. Hai qualche altro progetto musicale prossimo? Mi sembra di sì, Eugenio. E guarda, io sono stato adesso proprio nel 2010 al Festival di Spoleto, al Festival di Due Mondi, proprio con questo musical che si chiama Briganti e Migranti. Tra l'altro saremo adesso ancora in tournée un po' in tutta Italia, saremo, se non sbaglio, il 24 a Gorizia, poi in giro sia al nord che al sud. Il progetto, siamo sempre alle prese con i progetti. Io sto scrivendo nuovi brani che compongono una prossima uscita, ma questo è banale dirlo. Soprattutto noi stiamo raccogliendo un abbraccio di pubblico straordinariamente forte. Ok, benissimo Eugenio. Ti devo domandare un'altra cosa, da nuova compagnia di canto popolare ad arrivare a questo, la ricerca sempre continua delle radici, è importante la ricerca sempre continua delle radici? Ma guarda, è importante finché poi dopo le assimili, non è che io maniacalmente penso andiamo a cercare qualcosa che ci appartiene. Io penso, la mia cura è quella di scrivere melodie, musiche, come per esempio Che il Mediterraneo sia, che è diventata una sigla, se non sbaglio, di Linea Blu, sì. Insomma, che la trasmettono in continuazione, e che è sul ritmo della Taranta, che rappresenta un discorso di oggi, cioè la necessità oggi di comprendere le etnie, gli extracomunitari, quelli che sono presenti sul nostro territorio e che ci possono portare grande energia, così come l'hanno portata nel secolo scorso negli Stati Uniti, o così come gli italiani o gli irlandesi lo hanno portato appunto nei luoghi dove sono emigrati, dall'Argentina all'Australia agli Stati Uniti d'America. Benissimo, Eugenio, ancora una cosa prima di terminare, naturalmente ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando a telefono con Eugenio Bennato in occasione dell'uscita del suo libro che si intitola Brigante Semore, viaggio nella musica del sud. Prima di lasciarci, Eugenio, un breve commento sul pezzo che andremo ad ascoltare poi, che è Balla la Nuova Italia. E come fate ad averlo? Dimmi. Ah, perché... ce l'ha mandato il tuo ufficio stampa. Guarda, perché quello ancora deve uscire, immagino che sia un provino. È qualcosa che ho scritto proprio recentemente, Balla la Nuova Italia, è un pezzo che è un canto molto... Tra l'altro cito Fabrizio De André in questa canzone, ma riguarda una realtà che mi è presente tutte le sere quando faccio i concerti, cioè delle immagini che sono di una gioventù, di una nuova generazione completamente diversa da quella televisiva, da quella che si appiattisce sulle imitazioni, sui concorsi televisivi tipo X Factor, una generazione molto più attiva. Per cui ho scritto, mi ha dato l'immagine appunto di un'immagine assolutamente nuova dell'Italia, e quindi questo è comunque un brano che ho appena scritto. E quindi noi possiamo ascoltarlo assolutamente in anteprima, allora, a questo punto, certo, vorrei dire. Vai. Benissimo. Ok, e quindi siamo partiti dal 1860 a parlare della quasi unità d'Italia, del brigantaggio, siamo arrivati proprio nel 2010 a parlare di una canzone che è ancora a livello di provino, e l'ascoltiamo anche in anteprima qui noi su Blu Radio Veneto. Bene, Eugenio, allora grazie di essere stato con noi. Ancora forti complimenti per questo che è il tuo libro, che noi ci siamo divertiti a leggere e abbiamo capito qualcosa di più e qualcosa visto anche da un altro punto. Esattamente, abbiamo letto certe cose che non erano sconosciute, quello importante. Io ti ringrazio, tanta musica, tanta buona musica a voi e a tutti gli ascoltatori della vostra radio. Grazie. Grazie Eugenio. Benissimo, grazie Eugenio Bennato. E noi adesso, proprio a conclusione dell'intervista, andiamo proprio ad ascoltarci questa chicca in anteprima, Balla la Nuova Italia, Eugenio Bennato. Radio Veneto. Sempre più sta risuonando la canzone della gente, dalla terra del rimorso, anomalia dell'Occidente. Sempre più sta diffondendo il suo ritmo ed il suo suono, il tamburo maledetto che guarisce col veleno. Sempre più sta risuonando ai confini della storia, dalla piazza di Melpignano alla terra di Caulonia. La canzone della festa, la canzone del dissenso, contro i giochi del potere e del suo grande fratello. E balla, balla la Nuova Italia in direzione ostinata e contraria, e balla il ritmo popolare di chi non ci vuole stare. E balla, balla la Nuova Italia in direzione ostinata e contraria, e balla non vuol sapere niente. E chi non ci vuole stare, vuole vedere, vuole bombare. Chi niente vuole sapere, chiediamolo con mamma. E chi sono e chi non sono, vediamo sulle lune d'ore. Chi niente vuole sapere, chiediamolo con mamma. E chi corre, corre, corre, quando sono che sta d'amore. E chi niente vuole sapere, chiediamolo con mamma. E chi balla, balla, balla, quando sono che sta a chitarra. E chi niente vuole sapere, chiediamolo con mamma. Sempre più si sta muovendo dalla terra di nessuno, per andare controvento con il vento del suo tamburo, e per vincere nel mondo la scommessa straordinaria di una musica antagonista ed extracomunitaria. Sempre più sta sventolando la bandiera trasversale degli esclusi dal concorso dell'ignoranza nazionale, che si ostinano a cantare le canzoni dissonanti della scuola di Fabrizio, della scuola dei briganti. E balla, balla la Nuova Italia in direzione ostinata e contraria, e balla il ritmo popolare di chi non ci vuole stare. E balla, balla la Nuova Italia in direzione ostinata e contraria, e balla il ritmo differente di chi non può sapere niente. E balla, balla la Nuova Italia in direzione direzione ostinata e contraria, e balla il ritmo popolare di chi non ci vuole stare. E balla, balla la nuova Italia, in direzione ostinata e contraria, e balla il ritmo differente di chi non vuol sapere niente. E chi non ci vuole stare, vuole battere, vuole bombare, chi niente vuole sapere, lo chiediamo la bomba a me. E chi sono e chi non sono, lo chiamo il rullatore, chi niente vuole sapere, lo chiediamo la bomba a me. E chi corre, corre, corre, quanto sono che sta d'amore, e chi niente vuole sapere, lo chiediamo la bomba a me. E chi balla, balla, balla, quanto sono che sta chitarra, e chi niente vuole sapere, lo chiediamo la bomba a me. E balla, balla, la bomba in Italia, in direzione, si chiama e combinare, e c'è il ritmo popolare, chi niente vuole sapere, chi niente vuole sapere. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Maurizio, è così, siamo senza, riusciti senza saperlo. Sono molto contento, siamo riusciti a parlare siamo, con Eugenio. Siamo riusciti a parlare con Eugenio Bennato, finalmente questi cellulari ci hanno aiutato nel bene e nel male. Esattamente. Perché prima c'era un team che diceva l'utente è irraggiungibile, sì. E poi finalmente siamo riusciti a raggiungerlo. Ricitiamo il titolo del libro, sì. Eugenio Bennato, Brigante Semore, Viaggio nella musica del sud, della Coniglio Editore, è molto importante, con la prefazione, sì, di Carlo D'Angio. Bene, ricordiamo anzi che adesso ci siamo anche ascoltati una cosa dichiaratamente nuova. Un'anteprima assoluta, anzi forse era addirittura un demo. Esattamente. Ancora in fase di studio definitivo. Probabilmente doveva uscire nel 2011, ecco, proprio in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, per quello che si intitola Balla la Nuova Italia, e Eugenio Bennato ci ha dato anche diciamo il via per farla ascoltare. Forse è stata una cosa che così l'ufficio stampa sa che te l'ha mandato, ci ha messo dentro. Vabbè, non importa, l'abbiamo ascoltata e dobbiamo fare assolutamente i complimenti ad Eugenio per il libro e anche per questi suoi progetti musicali così importanti per la sua musica, questa musica popolare che abbiamo cominciato a conoscere forse anche un po', come dire, ignorandola prima, non ascoltandola mai a sufficienza, perché si dava, come diceva lui, troppi appuntamenti con l'estero, certo, dimenticando. Dobbiamo dire una cosa, che è stato lui con Carlo D'Angio a fondare la nuova compagnia di canto popolare, che è stata un'entità musicale importantissima per conoscere la musica appunto tradizionale. Certo, e poi subito dopo c'è stato l'appuntamento con Musica Nuova. Che è un po' diverso, cioè Musica Nuova è più proprio una ricerca ancora maggiore di musica popolare, e poi altri progetti che abbiamo citato. Insomma. Bene, e quindi anche con... Scusate, è andata giù un è po' andata la giù voce, la voce. Naturalmente, forse l'emozione. Forse. Esattamente. Ecco, quindi no, ricordiamo che poi l'ultimo lavoro di Eugenio Bennato si era fermato con il Grande Sud. Sì. Che sempre parlava un po' di questa taranta, di questo battente che batte in continuazione e che fa sentire in ogni momento appunto la musica partenopea. Bene, sono le 22:38 minuti primi, noi vi lasciamo assieme a Rock Wave, l'onda del rock, quindi un'infinita, come dire, scelta musicale sempre in ambientazione rock, e noi ci salutiamo. Posso ricordare l'appuntamento, certo, di domani? Certo, Maurizio, abbiamo quattro appuntamenti, il primo è stato con Eugenio Bennato, domani, sì, avremo Massimo Saccarola, che è un musicista di Santa Maria di Sala, qui vicino, sì, proporrà una musica acustica molto interessante. Giovedì avremo una cantante jazz qua, Eva Simontacchi verrà qua a suonare. Ah, bene. Assieme ad Agostino, che il conduttore Agostino, io sarò l'ospite, chiaramente. Sì, certo, assieme a lei. Sì. Tu accompagni, quale strumento suoni? E venerdì abbiamo i Nokis, un gruppo di Parma, un gruppo rock che ha fatto un progetto per noi, esclusivamente per Rock Wave, in fase acustica. Ah, bene, quindi abbiamo validissimi appuntamenti da fare concorrenza al nostro bene amato odiato televisore. Esatto, e tutti curati dal nostro organizzatore e direttore artistico Alberto Prisco, che salutiamo con tanto che salutiamo cordialmente. Benissimo, allora grazie a tutti per averci seguito sino a qua, comunque noi non vi lasceremo soli, tanta programmazione di buona musica adesso d'ora in poi. fino a domattina. Certo. Bene, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, un grande ciao e buonanotte a tutti. Ciao. Ciao.